Luxo Spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Mia Daschio su Play e Stefano W. Pasquini. Okay. I don't want you in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the person. I'm not your poodle. No. Please, why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like Molly, 'cause I know tomorrow night at pillow talk time you call my phone throbbing and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby, 'cause I just ain't another girl like E. Plus you ain't worthy of a girl like me. I can do way better than you, Rich, don't worry. Now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, you're like no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? All I heard was nah, yeah. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be forced. I think you've been smoking way too much bush. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get here, I suggest you just flush. Ci sono due Anderson. Two Anderson. Two Anderson. You don't even know how to provide for your shit. Bro, cast guys, I spent 500 chicks. All my mates said that I had you hit. Do I intimidate you? 'Cause I am the shit. Yeah, I am the lake. Can you shut pipe down? Go make that real young and leave right now. 'Cause I could turn this argument right round. So baby, stick your tongue out and bite down. I don't really care the earrings you wear, the ups and downs in and out of your hair. Girl who works there, the war boots reduce the size of your derriere. I don't care how you think I should behave. I can't believe that I changed. You had me whipped and chained, but no more. Shut up and listen, I'm gonna flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains. Always flush, out my veins, out the drain. Flush, you're like no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? All I heard was I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be scorched. I think you've been smoking way too much bookers. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. So before you get hit, always I suggest you just flush. Non so che cos'altro dire. Che i volumi sono ok, abbastanza. No? Abbastanza. Remember that time, yeah. I tried to do something nice. You just whine. I bought you champagne, but now you want wine. It's a real pain, just make up your mind. I mean, don't mind, mind, you're wasting my time. You ain't got no right, you wait all the pies. Plus I know five guys who's waiting in lines. I bet you just slide and say your bye-bye. Cos'è sto freddo? Vino. È tornato l'inverno? Davvero? Quattrocentottantaseiesima puntata di Coxo Spaziale, siamo spaventosi. Sei ancora qui con noi, Mia, grande. Esatto, e non arriverò, cioè diciamo che la 500esima puntata probabilmente non sarò qui. Chi lo sa, chissà chi lo sa. Io intanto devo fare questa cosa qua perché oggi... Foreigners everywhere. Esatto. Allora beh, ci voleva un wow città. Perché abbiamo due ospiti stranieri, che bello, due Anderson. Eric Anderson with two S. Benvenuto. I know you can say grazie. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno, that's great. Yeah. Cappuccino. Una birra grande. So you'll learn all the things you need to all the to important know. Things. Exactly. Yes. E poi abbiamo Karin Anderson con una S sola invece. Sì, infatti io dico Kitos. Chi come? Okay. Kitos. Kitos. Che è finlandese. Grazie. Che vuol dire, adesso diteci cosa vuol dire perché infatti perché, no, se non ricordo male vuol dire grazie. Ah, wow. Thank you. Kitos. Kitos è stanchio, yes. Okay. Ah, wow. Infine. Cane, orologio, cane. Cane rappresenta vero amore. Cane morto, cane morto, cane morto, cane morto. Vi volevo ricordare, questa era la figlia di Ludovica Carbotta. Vi volevo ricordare che la mostra di Ludovica Carbotta sta per finire al Mambo, per cui se non l'avete ancora vista andatela a vedere subito, subito. Cioè, non stasera ma domani mattina. Domattina non si può perché il Mambo apre alle 2, per cui domani pomeriggio, domani dalle pomeriggio. 14 in poi, a lunedì è chiuso naturalmente. E cosa succede anche al Mambo? Ah, ecco, domani pomeriggio alle 5 succede che questi due personaggi che abbiamo qui con noi, non so che cosa fanno, che cosa farete domani al Mambo? No, lo so benissimo, ma faccio finta di non saperlo. Stefano, credo che sia alle 5:30. Alle 5:30, sì. Ah, ecco, fantastico. Okay. What's happening tomorrow at 5:30 at Mambo? It's kind of a surprise. Una sorta di artist talk, o come si suol dire, no? Un incontro d'artista con Jan-Erik Andersson, appunto. Che è qui con noi. Esatto. Mm-hmm. E poi abbiamo Karin Andersen, che è qui con noi. Che non sono parenti. E poi abbiamo Fabiola Naldi, che invece non è qui con noi, ma che salutiamo caldamente. Ciao Fabiola. E poi Lorenzo Balbi, che vi introdurrà. Di che cosa parlerete domani? È che il problema è che ci sono un po' troppe cose che si potrebbero dire, perché Jan-Erik è qui, è a Roma attualmente, mm-hmm, per tutto il mese di aprile, in una residenza del Finnish Institute, mm-hmm, e abbiamo il piacere di averlo a Bologna per qualche giorno, e quindi si è potuto realizzare questo artist talk in cui lui potrà raccontare le sue esperienze, che a mio modesto avviso sono parecchio interessanti, perché si parla tanto di public art e cose di questo tipo, no? Me lo confermate anche voi? Certo. No? Sì, certo. E Jan-Erik è uno che la public art la fa per davvero, mm-hmm, nel senso che fa veramente cose che avvicinano l'arte alla qualità di vita delle persone, e questo sempre anche con un occhio verso l'ecologia, un occhio verso gli aspetti ludici, anche il divertimento, ma mai scontato, diciamo, e con un approccio estremamente interattivo, relazionale. Public Maybe art. Basically, she said that very good. So. Yeah. Well, yeah. She said that you just piss around with things and things that kids can play with. I do a lot of fun things. That's what I do. Faccio cose molto divertenti. Ecco quello che faccio. So who's having the most fun? You or the people that play with your things? Well, I think very many people like what I do, but there are people who hate people who have fun, especially in architecture. I mean, if you make a heart-shaped window on your house, most architects would hate it. Mm. Tante persone adorano quello che faccio, ma tante persone lo odiano anche. Per esempio, soprattutto gli architetti, se faccio delle finestre a forma di cuore, sono sconcertati da questo, no? Mm. Why architects hate loves windows? Because they're not artists. They consider it a kitsch or whatever. Okay. But I think people need more fun and more humor and more fantasy, more surprises. Usually architects want to control everything, and there is no room for much of surprises, for example. Mm. So now I'm very happy to have found Erkki Pitkäranta, who's an architect I work with, who we are doing it like collaborative project, and then we invite other artists, and we said, you can do anything here. Mm-hmm. Come si chiama il tuo collaboratore? Il suo collaboratore? Il suo collaboratore, se non sbaglio, però adesso mi correggerà, si chiama Erkki Pitkäranta. Yeah. Ok, che è un architetto e che gli ha detto puoi fare quello che ti pare, no? Did Erkki tell you you can do whatever you want? Yes. Not first, but non proprio da subito. We started, we were both invited to a project and we were first like. Inizialmente quando sono stati coinvolti in un progetto da soli si guardavano in cagnesco e poi dopo una settimana hanno scoperto che si divertivano insieme. Loro collaborano da tantissimo tempo, insomma, da quando io conosco Jan Erik, che ormai sono parecchi anni. Il nome Erkki Pitkäranta è sempre stato presente e hanno anche una sigla. How is it called when you collaborate with Erkki? Don't you have this rose garden? We have this kind of rose garden. I mean, that's a name you cannot have, you know, in an architectural company. But we had it. Yeah. We had it. What's the sigla? Rose garden. Rose garden. Il giardino delle rose. You never promised me a rose garden. Il loro logo, che però appunto non si può utilizzare nel mondo dell'architettura e dunque non lo utilizzano. Mentre invece noi ascoltiamo cosa ci dice questa settimana Marco Romano. Ti dirò che a volte le parole servono a poco. Ti dirò che a volte basta guardarsi negli occhi e l'amore lo capirai solo da uno sguardo. Lo capirai da Marco Romano. Buongiorno. L'hai capito? This is like our mascot who listens us, or maybe not. We never understood if he listens us or not, but he do send us vocal song, little song, yes, every day. Every day he sends a vocal little clip of a song that he makes up to the radio. So, e noi lo adoriamo naturalmente. We love him. Marco Roma si chiama. Wow. E dunque lo ringraziamo naturalmente. Kitos. Esatto. Yeah, Kitos. Buongiorno. Buongiorno. Una birra, per favore. Ok, so tra poco, in a bit, we will listen as very special. Stavo aspettando la sveglia, che in effetti sta per suonare. No, mancano due minuti. Okay. Fra due minuti ascolteremo la mia voce registrata che vi racconta appunto il mio take della Biennale di Venezia, che ha inaugurato, quando ha inaugurato? Sabato scorso, ha aperto al pubblico sabato scorso, io ci sono stato mercoledì, giovedì e venerdì e niente, adesso fra non molto aspettavo che mi suonasse, la sveglia. Anche Jana, ho fatto un piccolissimo spoiler, ma per questo, per chiedere anche a Erik, that we will be listening in a few minutes the special of Biennale that you have been to in Venice this week, last week. So what did you think? Yeah. Ti ha fatto cagare come I have no idea. Do you think that it was no idea. For so many friends there, you know. Yeah. Molti amici. A livello sociale. Time is like a social event. In fact, you meet somebody. I mean, in this age is too big. I prefer. I was in the Maxi Museum in Rome, looking at one installation by Cunelli, exceptional. It was much better than everything I saw in the Biennale. In uno spazio ristretto, e naturalmente dice che è molto più interessante appunto avere una fruizione del genere. Che non la Biennale, che in effetti è diventata troppo grande e molto difficile da fruire. Io su questo sono assolutamente d'accordo. I totally agree with you. It's really tough to look at a Biennale with three, and every two years there are more and more artists. Yes, this year there were 300 and è suonata la sveglia. So the alarm is going on. So this is my daytime alarm clock, and è sempre più difficile ascoltarla, per cui vabbè, adesso intanto vi faccio sentire un po' di quello che è successo questa settimana e poi vedrete voi se vorrete andare a sentire, cioè andare a vedere la Biennale oppure no, perché in effetti sentirla in radio non è che funziona molto. Fuori porta. E Ed ecco che come ogni due anni Coxo Spaziale va alla preview della Biennale di Venezia. Naturalmente ringraziamo l'ufficio stampa della Biennale che ci ospita e ci permette appunto di vedere la Biennale prima ancora che apra al pubblico. Detto questo, venendo in treno da Bologna a Venezia, mi sono guardato in streaming la conferenza stampa del curatore Adriano Pedrosa, che è un direttore di museo di San Paolo del Brasile. Lui è un curatore brasiliano, è il primo curatore di un paese del terzo mondo, diciamo, che vive e lavora in un paese appunto non occidentale, che cura la Biennale di Venezia, e non solo, è anche il primo curatore queer che noi abbiamo alla Biennale. E dunque il titolo di questa Biennale, Foreigners Everywhere, stranieri ovunque, in realtà calza perfettamente in quello che è il suo essere e la sua esperienza curatoriale. Detto questo, devo dire che una prima piccola delusione l'ho avuta proprio alla conferenza stampa. Mentre due anni fa Cecilia Lemani aveva preso 45 minuti di tempo per raccontare il suo percorso del latte dei sogni attraverso appunto le immagini e le immagini parlate, diciamo, e la visualizzazione parlata di quello che voleva raccontare, ovvero appunto una storia parallela, una storia dell'arte parallela che includeva in maniera molto più forte la figura delle donne e la figura femminile. E il nostro Pedrosa semplicemente appunto ci racconta che da straniero si è sempre sentito, appunto, cioè nel mondo dell'arte lui si è sempre sentito uno straniero, un po' per la sua provenienza, un po' per la sua pelle leggermente olivastra, un po' per il suo essere appunto queer. E fin qui ci siamo. Dopodiché appunto entriamo nei giardini della Biennale, dove cura il padiglione aperto, e la prima scritta che troviamo è appunto Foreigners Everywhere, stranieri ovunque, che è un neon di questo gruppo chiamato Clairefontaine, che devo dire che non mi stanno simpaticissimi. Per inciso, sono quelli che hanno rubato adesso rubato una parola grossa, però comunque che si sono appropriati della scritta Pensati Libera, che hanno trovato scritto in giro per Genova da Cicatrici Nere, che invece appunto, come sappiamo, è un graffittista che gravita a Bologna, per cui Pensati Libera tutti noi bolognesi l'abbiamo visto in vari ponti, e l'hanno utilizzato per una sfilata di Dior a Parigi. Già il fatto che degli artisti contemporanei che lavorano a livello politico, che fanno molta critica politica a quello che è il mondo di adesso, siano stati assoldati da Dior per fare una passerella, devo dire che insomma diciamo il loro essere antagonisti lo rende un po' scricchiolante. Dopodiché appunto questa scritta Pensati Libera è stata stampata, Dior l'ha messa su una stola che poi ha indossato la Ferragni a Sanremo, rendendo questa frase appunto, banalizzando questa frase in maniera estrema, perché poi appunto se noi adesso andiamo a scrivere Pensati Libera nei siti lo troviamo addirittura le copie su Shane di magliette con scritto Pensati Libera, che è una bella frase, era una bella frase che appunto aveva, comunque vabbè, lasciando stare Clairefontaine appunto, entriamo, troviamo questo Foreigners Everywhere, stranieri ovunque, che fra l'altro è una dicitura che Clairefontaine aveva si era appropriato da un gruppo di antagonisti torinesi nei primi anni 2000, e dunque appunto ci infiliamo dentro questo padiglione aperto, l'ex padiglione Italia all'interno dei giardini, e troviamo varie installazioni, alcune molto interessanti, altre un po' meno, e tantissima pittura, tantissima arte tessile, cose che resemblano, non è italiano, che assomigliano vagamente ad alcune tipologie di artigianato che magari troviamo nei mercatini hippie, eccetera, eccetera. In realtà, appunto, la maggior parte di queste opere sono opere fatte da persone che vengono da paesi in via di sviluppo, insomma. Il che va benissimo fino a che non ci incrociamo opere di alcuni di questi artisti e poi andiamo a vedere la loro biografia e ci accorgiamo, appunto, che sì, sono nati in Namibia, in Nigeria, in Indonesia, eccetera, però hanno studiato a Yale, hanno studiato a Harvard, hanno studiato al Goldsmith di Londra, eccetera, eccetera, e lì capisci che in realtà il loro essere stranieri, sì, è un dato di fatto, ma sono stranieri comunque molto ben agevolati dalla loro classe sociale, dalla ricchezza dei loro genitori che gli hanno permesso di andare a studiare, appunto, a Yale oppure a Goldsmith, eccetera, eccetera. Listen, they're lost. Leave them. Those lost souls once swimming. Detto questo, all'interno dell'arsenale e anche nel padiglione Italia dei Giardini ci sono alcuni episodi di grande forza anche politica, tra cui appunto questo Disobedience Archive, che è curato da Marco Scottini con una serie notevole di artisti e di documentaristi che appunto hanno creato questo archivio video multifase mobile in continua evoluzione incentrato sul rapporto tra pratiche artistiche e azione politica. Sto leggendo dal loro comunicato stampa. Presentato 15 volte in diversi paesi, Disobedience Archive si trasforma ogni volta senza mai assumere una configurazione definitiva. Che si tratti di un parlamento, di una scuola, di un giardino pubblico, il progetto trasforma l'archivio per sua natura statico e tassonomico in un dispositivo dinamico e generativo. Per la Biennale Arte, Disobedience Archive rappresenta The Zootrope, una macchina precinematografica che animava le immagini. Indaga la pre-rappresentazione del movimento dando vita a uno spazio centrifugo. Questo perché tutti questi video erano disposti in una serie di corridoio fatto circolare. In questa occasione presenta due macro sezioni che comprendono appunto 40 filmati: Diaspora Activism, affronti processi migratori transnazionali nel contesto del neoliberismo egemonico come lotta che spinge a nuovi modi di abitare il mondo e mette in discussione il significato stesso di cittadinanza, e Gender Disobedience, che in continuità con la sezione precedente è dedicato alle soggettività nomadi concepite come rottura del binarismo eterosessuale. E dunque, appunto, all'interno di questo cerchio, di questo corridoio centralizzato, tu ti potevi sedere davanti a questi monitor e guardarti alcuni di questi documentari. Alcuni erano molto lunghi, altri piuttosto corti, alcuni erano storici, altri erano molto più contemporanei, ma erano tutti comunque con una valenza veramente, veramente potente. Dopodiché, naturalmente, la domanda che uno si fa è: ma qui siamo di fronte a un'installazione artistica oppure siamo di fronte a un'installazione politica che entra all'interno della Biennale? Non che sia una domanda per niente, nel senso che comunque io sono d'accordissimo con Petrosa quando mi chiama degli artigiani che non sono mai stati alla Biennale, che non sono nel mondo, nel circuito dell'arte. Sono un po' meno d'accordo quando chiama appunto artigiani che però ce l'hanno fatta e sono diventati rappresentati da gallerie potentissime, e dunque diciamo che ci dovevano stare per forza in questo contesto. All'interno di questo Disobedience Archive ci sono appunto dei video che sono molto potenti e che ci raccontano appunto l'essenza dell'uomo, l'essenza e anche ci avvicinano alle problematicità legate all'essere stranieri, all'essere rifugiati, all'essere nomadi, all'essere non eterosessuali, al non essere binari, eccetera, eccetera. E dunque appunto questo è stato uno degli episodi sicuramente più potenti all'interno di questa biennale. Dopodiché ci sono varie quadrerie sia ai giardini che all'arsenale che francamente ho trovato piuttosto deludenti. Sì, ci vuole, cioè devo dire che uno dei problemi più grossi della biennale è proprio la fruibilità della biennale stessa, nel senso che quando tu hai 335 artisti e hai due giorni per vederli tutti, nel momento in cui alcuni di loro mi presentano un video di 1 ora e 40, è difficile che io possa fruirli come mi piacerebbe fruirli. Lo stesso vale appunto per il fatto che comunque durante l'opening c'è un sacco di gente e alcune delle opere si fa veramente fatica a fruire, altre ti saltano agli occhi. Devo dire che le tre quadrerie, una di quadri astratti appunto di artisti che venivano da paesi in via di sviluppo e le altre due quadrerie, devo dire che le ho trovate piuttosto deludenti, cioè soprattutto a livello di qualità dell'opera, nel senso che c'è tantissima pittura ma non è bella pittura, mentre invece anzi sicuramente 2 anni fa nella Biennale dell'Alemanni gli era stato appunto criticato il fatto di avere troppa pittura, però tantissima di quella pittura era veramente pittura di altissima qualità e quella è una differenza fondamentale. Uno dei lavori più forti e interessanti è sicuramente quello di Bukra Khalili, che è un'artista franco-marocchina che ha mostrato un'installazione video chiamato The Mapping Journey Project, che nel corso di 3 anni appunto ha collaborato con rifugiati e cittadini apolidi dell'Africa settentrionale per farsi raccontare le loro mappe migratorie, ed è abbastanza, cioè fermandosi a guardare uno di questi video ti accorgi di quanto sia complicato e dispendioso e coraggioso l'intraprendere il viaggio della speranza appunto che porta cittadini africani o comunque del Medio Oriente in Europa. Alcune di queste storie sono veramente incredibili, capito? Gente che ci prova e ci riprova 3 o 4 volte per poi finire in Libia, stare un anno in una sorta di centro di detenzione, poi dopo viene rispedito nel paese d'origine, poi ci riprova, arriva in Spagna, arriva fino alla costa di Gibilterra, ma poi viene rimandato indietro, eccetera eccetera, e alla fine naturalmente questi sono quelli che ce l'hanno fatta senza morire e senza altre conseguenze, e semplicemente noi non vediamo le facce di queste persone, sentiamo solo la loro voce nella loro lingua madre, oppure generalmente in francese o in inglese, che appunto raccontano questi viaggi con una mappa geografica davanti, e vediamo solo semplicemente le loro mani che con un pennarello ci fanno vedere il viaggio, e alle volte è veramente arzigogolato. A me un po' ha ricordato il viaggio di ritorno di Primo Levi dal campo di concentramento di Auschwitz, come raccontato nella tregua appunto, perché comunque la tipologia è la stessa, gente che parte dal Pakistan con 7 euro in tasca e poi appunto si ferma in Burkina Faso per 6 mesi e lavora nei campi facendosi un culo spaventoso per poi appunto raccattare abbastanza soldi per l'autobus che ti porta in Libia e eventualmente riuscire a infilarsi su un barchino che ti porta in Sicilia. E sono storie veramente potenti, cioè sono quello che è il prodotto di questa globalizzazione mondiale, e in effetti devo dire che la sensazione di tristezza è proprio quella, che dopo 20 anni dal G8 di Genova e dal G7 di Seattle 1999, malgrado tutti gli sforzi di tutti quelli che non volevano che questo mondo diventasse in questo modo, il mondo è diventato in questo modo e noi ne paghiamo le conseguenze. E purtroppo devo dire che anche questa biennale è un po' una conseguenza di questo ventennio di liberismo sfrenato. Sì, stavo per dire non frenato, ma è veramente sfrenato. un altro lavoro super interessante, quello di Alessandra Ferrini, che è una fiorentina dell'84 che però vive a Londra, io francamente non l'avevo mai sentita dire, che ci racconta con un video fatto con vari spezzoni eccetera, e ci racconta l'amicizia tra Gheddafi e Silvio Berlusconi. Il titolo del video è Gheddafi in Rome, Anatomy of a Friendship, e appunto ci fa vedere la relazione tra i due stati scavando nelle radici dell'occupazione italiana tra l'11 e il 43 per arrivare appunto ai recenti accordi bilaterali che hanno ridisegnato le politiche migratorie nel Mediterraneo. Il film, dice il comunicato stampa, è corredato dall'immagine molto discussa di Omar al-Mukhtar e da una linea temporale di accordi diplomatici. La serie intende sviscerare gli eventi storici e le dinamiche coloniali che hanno caratterizzato questa relazione controversa. Ecco, in effetti tutta la biennale di quest'anno, anche i padiglioni nazionali, vertono molto sull'idea di colonialità e di come controvertire questa tendenza di colonialità, però ahimè, soprattutto la biennale di Pedrosa, ahimè, secondo me non lo fa in maniera abbastanza forte. Guido Molinari, critico d'arte, ha scritto pubblicamente su Facebook che questa è la peggiore biennale da sempre. Non dubito che le abbia viste tutte dal 1895 in poi, però comunque anch'io devo dire che è stata, cioè, tendenzialmente con un titolo così forte e con un preambolo concettuale così attuale, devo dire che sì, anch'io sono stato deluso dalle aspettative che avevo, che forse appunto erano un po' troppo alte. Poi naturalmente ci sono tutti i padiglioni nazionali, molto bello quello della Francia che ci porta in un mondo surreale di realtà virtuale, però molto, molto fluido, molto floating. Anche quello della Svizzera, che invece a proposito di fluidità invece ci porta in un mondo queer che con queste voci e questa opera eccetera ci facciamo fatica un po' a uscirne. Il Leone d'Oro è andato al padiglione australiano con questa installazione di Archie Moore, che fra l'altro appunto è un indigeno australiano che ha fatto un lavoro di ricerca notevolissimo a livello politico, dove appunto è andato a scavare tra tutti i documenti di tutte le morti di tutti gli indigeni australiani e ha creato questa installazione in una sorta di enorme albero genealogico scritto a gessetto sulle pareti annerite. E poi appunto ci sono questi faldoni e faldoni e faldoni di documenti che raccontano come sono morti alcuni di questi indigeni australiani. Giustamente ha vinto il Leone d'Oro per la miglior partecipazione nazionale. Dopodiché hanno dato una menzione speciale alla Repubblica del Kosovo con l'artista Doruntina Castrati. Non credo di averlo visto, per cui non posso dirvi niente di questo. Leone d'Oro per la miglior partecipazione all'esposizione a Matao Collective della Nuova Zelanda. Dopodiché Leone d'Argento per un promettente giovane partecipante all'esposizione internazionale con Karima Ashadu, adesso non mi ricordo qual era il suo lavoro, lo dovrei andare a vedere. E poi appunto due menzioni speciali ai partecipanti Samia Halabi e la Clocola Poblete. Io devo dire che tra i padiglioni esterni, cioè comunque i padiglioni dei giardini e i padiglioni nazionali, a me, cioè, ce ne sono stati tanti che mi sono piaciuti molto, e anzi forse sono proprio le partecipazioni nazionali che rendono questa biennale assolutamente da visitare. È bellissimo il padiglione austriaco dove questa artista racconta la sua migrazione da Mosca a Vienna, in cui appunto ci racconta in maniera molto sentita, molto emotiva tutta la sua esperienza di rifugiata politica in Austria. È molto bello il padiglione anche il padiglione olandese, che appunto ci racconta delle, ci fa vedere queste sculture di cioccolata e ci racconta delle difficoltà dei coltivatori di indonesiani di olio di palma, eccetera. Sono tante, anche il padiglione croato è molto bello. Vladka Horvat ha invitato tutti i suoi amici artisti conosciuti in giro per il mondo, con cui ha avuto rapporti o mostre insieme, eccetera, di consegnarle un disegno. Però la consegna deve essere fatta a mano, e dunque appunto ci sono state tutte queste staffette per riuscire a portare tutti questi disegni nel padiglione croato, che è fuori dai giardini. Sempre fuori dai giardini, il mio padiglione preferito è quello di East Timor, ovvero Timor Leste. The lipstick and the frosted pieces of war. Why they being raped by the military? L'esposizione si chiama Kiss and Don't Tell, e diciamo che prende in giro la dicitura Kiss and Tell, ovvero bacia e racconta, mentre invece questa è bacia e non racconta. La curatrice è Natalie King e l'artista è Maria Madeira, che è appunto una nativa di Timor Leste. Praticamente l'esposizione è in una stanza, è una sorta di installazione pittorica molto bella, fra l'altro, proprio pittoricamente funziona molto bene. Ci sono queste strisce dipinte che vanno verso il basso con questi interventi colorati, ha proprio una istanza emotiva e gestuale forte, e nello stesso tempo nel retro sentiamo queste voci che raccontano una storia con anche dei gridi, delle canzoni, eccetera. Dopodiché andiamo nella seconda stanzina e ci guardiamo il video dove c'è lei che racconta appunto il momento in cui Timor è diventata indipendente nel 1999, e dunque lei è tornata a casa e ha scoperto che a casa sua, nella sua stanza da letto, era usata come luogo di tortura per le ragazze che invece erano rimaste a Timor Leste. E praticamente i soldati indonesiani, lei ha trovato tutte queste tracce di rossetto a una certa altezza della stanza e si è chiesta: ma perché c'è tutto questo rossetto? Ci ha messo un po' a farsi dire da chi era sopravvissuto all'invasione indonesiana che cosa era successo, e poi appunto ha scoperto che l'usanza era quella appunto di chiedere a queste ragazze di indossare il rossetto, di baciare il muro, e intanto venivano stuprate dai soldati indonesiani. Una volta che sappiamo questa cosa, naturalmente lo sfondo di questa installazione diventa differente e poi ci accorgiamo appunto anche delle tracce di rossetto all'interno dell'installazione stessa, che diventa tutto molto più espressivo e molto più emozionante. Io devo dire che dopo aver visto il video e riguardato la stanza, non c'era nessuno in quel momento nel padiglione e mi sono messo a piangere. E dunque questo appunto sottolinea il fatto di quanto sia importante, in ogni caso, anche se è una biennale deludente, anche se c'è tantissima brutta pittura, e soprattutto anche se costa 50 euro per due giorni, l'ingresso per due giorni sono 50 euro, che secondo me è un prezzo che veramente, per una biennale chiamata Foreigners Everywhere e non è esattamente foreigner friendly, sicuramente questa è una biennale da non mancare. Se non ve lo potete permettere, vi consiglio di passare almeno un giorno a Venezia e andare a vedere i padiglioni esterni, sicuramente la Croazia, sicuramente Timor Leste, sicuramente la mostra di Jim Dine, che è gratuita ed è veramente potentissima. Non ve la racconto perché altrimenti mi allungo troppo, e dalla Biennale di Venezia è tutto. Ci rivediamo fra due anni. Che specialone! Che specialone, è un po' troppo lungo, no? Ci è rimasto pochissimo tempo adesso. Cosa facciamo, Mia? Siamo ritornati a Cocos Spaziale con due ospiti qui con noi, Karin e Eric. Anderson. How did you met the first time? Come siete conosciuti la prima volta? Ci siamo conosciuti nel 2000 grazie a un artista curatore finlandese che si era inventato un super progetto di abbinamento artisti delle varie capitali di cultura dell'anno 2000. E così, non so come, ha pensato che abbinando Andersen e Anderson poteva venire fuori qualcosa di interessante. E così ci siamo conosciuti in vari sopralluoghi tra Helsinki e Bologna, e dopo abbiamo realizzato una specie di installazione pubblica con performance a Helsinki e una performance a Bologna, tutto incentrato sulle impressioni che Jan Erik ha avuto di Bologna, in particolare di un rituale medievale o rinascimentale che si chiama porchetta, che consisteva nel fatto che venivano gettati dei maiali interi sulla folla affamata dall'alto dei palazzi da parte dei potenti, e poi versavano giù anche del vino. Questa cosa ha affascinato Jan Erik a tal punto che è diventato l'incipit per una performance appunto a Helsinki, e poi a Bologna l'abbiamo anche paragonata poi a certe caratteristiche della mente finlandese, quindi era una cosa quasi un po' pseudoscientifica, così come è venuta fuori. A che cosa l'avete paragonata? Nella mente finlandese? Avevamo trovato dei nessi veramente molto molto sofisticati, e in particolare tra questo rito bolognese e alcuni riti del folklore finlandese. Ad esempio c'è questa cosa che si chiama air guitar playing. How is air guitar in Finnish? It's like ilma chitarra. Ilma chitarra. Che è semplicemente suonare la chitarra senza niente, no? Mi mando. Mm-hmm. E ci sono delle competizioni di questo. Ah, così. Cioè, ma a livello mondiale ci sono competizioni di air guitar playing. Sì, sì, in finlandese sì. Sono top. Così top. Come ci sono air guitar players. Competizioni di portare la propria moglie in corsa. E anche questo è stato poi messo in pratica all'accademia dove abbiamo fatto questa performance. Carrying your woman. What is it called in the women carrying in Finnish? Se on vaimonkantokilpailu. Okei. Okay. Vaimonkantokilpailu. Fantastico. Not repeatable. Devi portare tua moglie, non puoi portare una persona a caso, capito? E ci vuole proprio il matrimonio. Non va bene per le unioni civili. Esatto, no. And then you run. You compete with other guys carrying their woman. Oddio, abbiamo ricevuto un messaggio vocale. Cosa facciamo? Ascoltalo. Mettilo subito. Lo mettiamo subito così? Allora. Vocal message came on air. Ascoltiamo un messaggino vocale. I love our guitar rock and roll. Very good. Qualcuno che non conosciamo che ama le air guitar playing. Senti, ma ahimè dobbiamo anche fare questa cosa qua oggi. L'angolo della menzione. Domani alle 17 abbiamo, all'interno della grande mostra diffusa, la pittura Bologna del lungo 800, 1796-1915, l'Accademia di Belle Arti di Bologna propone una serie di visite guidate nei propri spazi storici dal titolo La formazione artistica nell'Ottocento, gli spazi storici dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, occasione preziosa per ammirare l'Aula Magna, l'Aula Clementina e l'Aula Curlandese. E questo è in Accademia, in via Belle Arti 54, domani alle 17, non c'è bisogno di prenotare. martedì 23 invece alle 17.30 alle 17.30 Iconic Spaces Artist Talk con Jan Erik Andersson e che viene da Turku, Finlandia, mm-hmm. e Fabiola Naldi e Lorenzo Balbi, no? E anche Karin Andersen. E anche Karin Andersen. Ci sarà. Scritto intervengono Fabiola Naldi, docente, critica e curatrice, Karin Andersen, artista e docente dell'Accademia Unidee della Fondazione Pistoletto Biella, introduce Lorenzo Balbi. E parleranno di come si può abitare un'opera d'arte, quali forme artistiche hanno il potenziale di incidere concretamente sulla qualità della vita pubblica e privata delle persone, la valenza della public art in Scandinavia è diversa da quella italiana? Ne parleremo infatti con l'artista finlandese Jan Erik Andersson, attualmente in residenza presso il Finnish Institute a Roma. Tutto questo alla sala conferenza del Mambo in via Dominzoni 14. Mercoledì invece alle 12 mostra personale di Onorio Bravi per non dimenticare, festeggiamo l'antifascismo all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, mostra a cura di Sandro Malossini col patrocinio dell'ANPI di Ravenna. Questo è in via Aldo, all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna in via Aldo Moro 50 a Bologna mercoledì a mezzogiorno. Sempre mercoledì 24 aprile, però alle ore 17, Alessandro Guardassoni dall'Idea al Pennello, una conferenza a cura di Valentina Volta. Una parte significativa dell'attività del pittore fu dedicata alla decorazione di soffitti e cappelle delle chiese, almeno 30 soltanto a Bologna. Ogni lavoro era preparato da numerosi disegni, sia di insieme che di particolari, piccoli capolavori che trasmettono già l'intensità spirituale e l'atmosfera delle opere finite. Tutto questo alla Fondazione Gualandi, ingresso su prenotazione a direzione @fondazionegualandi.it, via Nosadella 51A. A Bologna. Devi dire anche la prossima perché io non ce l'ho. Mercoledì 24 aprile invece sempre quindi mercoledì dalle 18 alle 22 al MAG, magazzino Art Gaze, spregiudicata galleria d'arte fondata da Alessandra Carini nel 2016 a Ravenna, annuncia l'apertura del suo nuovo spazio in via Testoni 5 a Bologna. L'inaugurazione avrà luogo il 24 aprile appunto dalle 18 alle 22 con la doppia personale dei talentuosi e chiacchieratissimi artisti Giulio Alvigni e Luca Rossi. Giulio Alvigini è Make Italian Art Great Again. Dal titolo Padiglione Italia. Con la GL. Tutto questo al MAG, magazzino Art Gaze, in via Testoni 5 Bologna. Da non mancare questo opening. Mentre invece giovedì 25 aprile tutti naturalmente al Pratello, inoltre in occasione del 25 aprile anniversario della liberazione l'ingresso nei musei afferenti alla direzione regionale Musei Emilia Romagna è gratuito. Su coxospaziale.blogspot.com domani troverete il link di tutti i musei dell'Emilia Romagna che sono gratuiti il 25 aprile, che non è male per niente. Il 24 e 25 aprile a Imola, in vari luoghi della città, sarà presentato il progetto artistico di Annalisa Cattani, Quando un posto diventa un luogo, che da 10 anni coinvolge gli istituti scolastici cittadini con l'intento di creare momenti artistici partecipativi sulla memoria e la resistenza. Chiederemo ad Annalisa Cattani di venircelo a raccontare in una prossima puntata di Costo Spaziale, ma nel frattempo il fitto programma è su un link che trovate su coxospaziale.blogspot.com. Tutto questo naturalmente a Imola. Dopodiché rimane domenica 28 aprile alle 11 che come al solito su documentando.org continua Masterpiece sulle tracce della meraviglia. Abbiamo avuto Raffaele Quattrone qui con noi. La puntata di questa settimana si intitola Desideri e modelli sociali e vedremo Vanessa Brinkroft e Jeff Koons. Anche qui basta andare su documentando.org. Basta. Direi che abbiamo tantissimi appuntamenti. Oggi è solo il 22. E cosa diciamo allora di domani, visto che abbiamo qua Karin ed Eric? What we would like to take about tomorrow talk? I mean, it's like a very huge topic. Are we gonna see a lot of your work? Mm-hmm. Andremo a vedere molti dei tuoi lavori passati. You will see very interesting buildings and art projects, I promise you. Forse non so se l'abbiamo detto prima, perché Jan Erik ha costruito addirittura una casa, anzi ormai sono già anche due, che sono delle vere e proprie opere d'arte totale, anzi Gesamtkunstwerk si direbbe, no? Credo. Ed è molto interessante vedere come poi queste opere casa sono nate anche sempre grazie a collaborazioni con architetti, in particolare con l'architetto già citato prima, e però anche con altri artisti, perché Jan Erik pratica sempre questo bellissimo networking dove coinvolge altri artisti nel processo, assegnandogli magari dei posti in cui intervenire, ma proprio con la massima libertà possibile. E oltre a case ha costruito anche delle saune con un altro artista con cui collabora molto spesso, che si chiama Sean Decker, di Chicago. He's from Chicago, right? Sean is a professor at the School of the Art Institute of Chicago in sound art. Mm. E creano queste, costruiscono tra le altre cose, ad esempio, delle saune con forme molto particolari, in cui è presente un meccanismo di suono che risponde all'umidità, al cambio di temperatura, con dei dispositivi che suonano, quindi quando succedono cose, come dire, atmosferiche dentro alla sauna. Certo. How the sauna works, no? It's like... It's sounding according to humidity. When you throw water on the heater, there is one soundscape inside the sauna which is kind of very, very, very minimal and philosophic. But then we also have on the outside speakers, and there is another soundscape which is wild. There are all like horns from old steamboats and stuff like that. So people in the surrounding, when they walk and bike, they hear when we are having a sauna. Così come anche nella casa che ho costruito, molto spesso succedono dei concerti pubblici, yes, di musica elettronica, musica sperimentale, e domani sicuramente vedremo dei video anche di questo. We will be seeing some videos of the concerts in the Leaf House, right? Yes, and there is also a sound work by Sean in the Leaf House, okay, which reacts in the changes in wind outside the house and light outside. Quindi degli scambi sia di casa sia della sauna tra quello che succede dentro e quello che succede fuori. Super. È finito il tempo. Come facciamo? Vi dobbiamo salutare, diamo appuntamento a tutti per domani alle 17.30 al Mambo. Naturalmente l'ingresso è gratuito nella sala conferenze, per sentire appunto questo. Chi farà la traduzione? Sempre tu, Karin? Ma sì, direi che sicuramente molti capiranno Jan Erik cosa dice, però all'occorrenza traduco, a parte il fatto che anche sarà un dialogo un po' multilingua, visto che anche Fabiola certo parla molto bene inglese. Super. Io vi ringrazio tantissimo, Jan Erik e Karin. Grazie per grazie essere stati voi qua. E come al solito vi salutiamo con le parole del nostro direttore, che fra l'altro stasera sta festeggiando il 21 aprile sotto la pioggia, e che come al solito appunto ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla, che è Non puoi rimanere, secondo singolo estratto dal nuovo disco di inediti del maestro Pellegrini. Il disco è caldo e bianco a colazione, ma tu hai l'aria di chi partirà, mentre lei rammenda ogni stagione con quel che è stato e quello che sarà. Dice che il disco si intitola Chi sono io ed è in uscita il 10 maggio, e ringraziamo Agnese di Pearl Press che ce l'ha mandato, e ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao ciao. Veste stretta la realtà.